America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. We are probably now, despite what we read, we're probably now, I think, at least as far as I'm concerned, closer than ever before. We're fighting for the same thing. We're fighting for lower taxes. Donald Trump con Mitch McConnell, capo della maggioranza repubblicana al Senato, hanno cercato di dare una parvenza di unità del partito, di un partito che in realtà resta molto diviso. Il presidente ha parlato di tutto, Iran, Iraq, riforma fiscale, ma devo dire non ha detto davvero qualcosa di nuovo. Per cui oggi vorrei dedicare la trasmissione a un tema molto importante, un tema che è emerso a cavallo delle riunioni del Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale, che interessa molto l'Italia e ha a che fare col settore bancario. Sentiamo. Among the priorities for this year, one is very obvious, draw the lessons from the comprehensive assessment to make sure that all the quantitative and qualitative information that we got through this exercise is fully used for supervision. A Washington c'era anche la signora Danielle Nouy, presidente della Commissione per la supervisione del sistema bancario europeo. La signora, o meglio il suo dipartimento, aveva inviato giorni fa un addendum a un documento per le banche italiane in cui metteva in guardia sul livello dei non performing loans, cosiddetti NPL, cioè sono cosiddetti prestiti in difficoltà, prestiti inesigibili, che riguardano i nostri istituti di credito, e suggeriva misure, come dire, diciamo a sorpresa e potenzialmente penalizzanti per le banche italiane. Ecco, questo ha destato sorpresa, però alla sua voce a Washington si è aggiunta quella di Paul Thompson, che è a capo del Dipartimento Europeo del Fondo Monetario Internazionale, anche lui d'accordo, guarda caso, sul da farsi. Bene, io dico, ma non intervengono forse questi signori con eccessiva libertà, visto che si parla di un documento consultativo? Non c'è il pericolo di violare il principio chiave di un regolatore, e cioè evitare interventi a sorpresa che colgono il mercato in contropiede? E difatti il mercato che ha fatto? Beh, si è agitato al ribasso già la settimana scorsa, ma anche ieri, ancora prima che una decisione formale fosse presa. Ecco, su questo devo dire ho espresso dei dubbi, perché è un modus operandi che mi sembra un po' strano, e ho espresso dei dubbi sulle pagine del Sole 24 Ore. Beh, sapete che è successo? Ho ricevuto chiamate anche aggressive in cui mi si diceva che non è affatto vero, che i regolatori fanno il loro dovere, e ho ricevuto una serie di obiezioni alle mie obiezioni. Allora, per rispondere, mi sembra giusto chiamare in causa il rappresentante di quello che è il principale istituto di credito italiano e uno dei principali europei, cioè il presidente di Banca Intesa San Paolo, Gianmaria Grospietro. Buongiorno, professore. Buongiorno. Bene, le riferisco alcune delle obiezioni che mi sono state fatte nel contesto di quelle che sono state le posizioni delle attività di supervisione della Banca Centrale Europea. Primo, si dice, ma attenzione, non è vero, non si parla soltanto di non performing loan, non si parla soltanto di questi prestiti in difficoltà, ci sono anche altre categorie di attivi a rischio, per esempio sui prodotti derivati, sul recupero di certe proprietà immobiliari. Dunque, non c'è soltanto l'Italia che è più esposta ai non performing loan nel mirino. Ecco, le chiederei, prima di rispondere a questa obiezione, le chiederei intanto una risposta d'insieme. È normale che ci sia questa dialettica? Insomma, com'è la vostra dialettica con le autorità prima che una decisione sia presa? Beh, intanto devo dire che la nostra dialettica con il regolatore è ottima. Noi collaboriamo e anche sui non performing loans siamo d'accordo. L'Italia ha una percentuale troppo alta dei non performing loans rispetto ai prestiti, va ridotta. Noi abbiamo come banca un nostro programma di riduzione che è stato concordato all'inizio di quest'anno con il regolatore. Se il regolatore intende accelerare questo programma, ne parleremo, perché forse le condizioni lo consentono, c'è una ripresa, si può fare. Il punto è che effettivamente questa azione di riduzione dei non performing loans, dal punto di vista del regolatore, si accompagnerà a altre azioni su altri asset illiquidi nei bilanci delle banche. Ma questo immagino che il regolatore ne farà oggetto di una prossima azione. Oggi si parla dell'addendum, e l'addendum riguarda esclusivamente i non performing loans. Ecco, quindi in qualche modo è un tema che riguarda soprattutto le banche italiane e come le banche italiane si stanno rimettendo in ordine, perché questo che sta succedendo. Le banche italiane hanno passato un momento difficile, però questo momento è superato. La crisi delle banche venete, superata tra l'altro col vostro intervento, e anche di MPS. Certamente. certamente in questo momento l'Italia ha un valore eccessivo nei bilanci delle banche, occorre ridurli. Noi abbiamo un piano per la riduzione dei nostri che è stato concordato proprio all'inizio di quest'anno con la Banca Centrale Europea. L'addendum, cioè questo nuovo documento che è in discussione, propone però un concetto nuovo, e cioè il valore dei non performing loans che viene preso a riferimento deve azzerarsi se si tratta per esempio di un credito non garantito entro 2 anni, il che non è il metodo che corrisponde ai principi contabili internazionali che sono obbligatori per la trasparenza del mercato. Colui che opera sul mercato deve sapere con esattezza e con chiarezza qual è il valore dei crediti, e il valore dei crediti dipende dalla loro recuperabilità, non può essere posto pari a zero entro 2 anni per qualunque tipo di credito, per alcuni è di meno, per altri di più. Ecco, in questo contesto però, come dire, io registro che l'intervento dell'autorità, invece di essere consultativo, ha già un impatto sul mercato, perché insomma il titolo, per esempio, della vostra banca e delle banche italiane in genere, poi ne ha sofferto. Ma il mercato ovviamente reagisce a qualunque tipo di situazione, e poi però le reazioni possono anche essere mutate. Noi adesso andiamo in un periodo di consultazione e l'importante è che la consultazione chiarisca la situazione, e il chiarimento deve, a mio parere, arrivare a una soluzione che consenta da un lato di ridurre non performing loans, dall'altro di essere aderenti a quella chiarezza e trasparenza nei confronti del mercato sul reale valore degli attivi delle banche, e infine anche che consenta alle banche di finanziare gli investimenti che saranno richiesti dalla ripresa. Bene, cerchiamo di guardare in avanti. Ho visto che ci sono stati anche degli interventi del presidente della BCE, di Mario Draghi. Tutti cercano a questo punto di calmare un pochino le acque. Lei stesso lo ha fatto, ha detto che avete avviato un processo di consultazione, dunque su questo si troverà un compromesso. Ma parliamone, vediamo se ci sono delle possibilità di trovare qualche soluzione, diciamo, che possa essere più in linea con la logica. Poi ho una domanda che le devo fare, perché insomma questa cosa mi ha un po' preoccupato. Ma secondo lei, perché il comitato di supervisione in particolare è sempre così, come dire, outspoken? Perché agitano invece di calmare, che dovrebbe essere la loro missione? È giusto o è sbagliato? È una questione magari di cattiva comunicazione? Insomma, come la pensa? Beh, non sta ai regolati giudicare il comportamento dei regolatori. Quello che è importante è che il regolatore europeo ha posto in consultazione una proposta di regolamentazione di questo specifico aspetto, e quindi il processo di consultazione è quello importante. Bene, devo dire comunque che la richiesta nei vostri confronti, nei confronti delle banche italiane, resta, perché, come anche ha detto proprio lo stesso Draghi, certe azioni vanno intraprese. E io condivido questo, no? Non condivido il metodo in cui questo viene comunicato, ma condivido, come condivide lei, il fatto che qualcosa deve essere in qualche modo messo a punto. Quindi, dal vostro punto di vista, al di là dei rischi impliciti in questa domanda, come dire, qual è la vostra posizione? In qualche modo dovrete rispondere alle autorità. Noi pensiamo che quello che si deve fare è nell'interesse dell'economia che è in ripresa, quindi bisogna ridare capacità di credito da parte delle banche. E quindi la prima cosa, e la cosa più importante, è fare in modo che le banche debbano subire minori perdite dall'erogazione del credito. E qui i provvedimenti varati dal governo e dal Parlamento ci aiuteranno in futuro. Secondo, evitare che ci siano eccessivi oneri dal punto di vista delle quote di capitale per i crediti esistenti, perché questo addendum prevede che anche i crediti esistenti, che dal 1 gennaio in poi diventeranno non performing, saranno soggetti a questa nuova calibrazione. E la discussione, la consultazione dell'addendum dovrebbe portare proprio a ottenere la soluzione migliore per raggiungere tutti gli obiettivi, e cioè da un lato avvicinare l'Italia alla situazione del resto dell'Europa per quanto riguarda i non performing loans, e dall'altro dare la capacità di finanziare la ripresa. Ci sarebbero meglio altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione ma resta pur sempre la nuova frontiera inesplorata. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, ho sempre con me Gian Maria Grospieto, presidente di Intesa San Paolo. Beh, professore, vogliamo suggerire una canzone ad hoc per i nostri ascoltatori. Cosa vuol proporre? Ma come presidente della più grande banca italiana propongo Money Money Money di Liza Minnelli. Money Money Money di Liza Minnelli. Alla fine, l'argent fa la guerre, come dice un vecchio proverbio francese. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the go around, of that we both are sure, on being poor. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.